Ciao a tutti e bentornati alla quarta puntata di Radiobook, il programma del blog Gli Scrittori della Porta Accanto, in collaborazione con Radio Big World. Io sono Giulia Mastrantoni, ma ormai lo sapete già, e sono felicissima di avervi di nuovo con me, ma anche questo lo sapete già. Durante la scorsa puntata vi ho parlato di una leggenda tenebrosa tutta milanese, di una da brividi goriziana, di curiosità legate a San Valentino e di un amore con annesso mistero torinese. E oggi? Oggi si parla di baci non dati e magari da non dare, di Maracaibo, e tra un attimo scopriremo il perché, e poi di cervello maschile e femminile e di tradimenti. In un editoriale pubblicato qualche tempo fa sul nostro blog, Ornella Nalon descriveva il bacio come un atto fisico importantissimo, ma non si tratta di una pratica universale. Per metà del mondo, infatti, il bacio non è considerato piacevole, anzi, è addirittura fastidioso. Alcune tribù del Brasile considerano il bacio volgare, molte culture africane non lo praticano affatto, in Cina, invece, viene considerato poco igienico. In Giappone non si usa baciarsi in pubblico, perché è ritenuto sconveniente. Mentre il bacio degli eschimesi è tutto particolare, si strofinano le punte dei nasi, con labbra e occhi chiusi. Negli ambienti nobili e raffinati è stato sempre diffusissimo il bacio a mano, consistente nello sfiorare appena con le labbra, ovviamente da parte dell'uomo, il dorso della mano di una donna. Questo tipo di saluto è ancora abbastanza praticato in Polonia, ma in Italia, ahi noi, si è perso completamente. Anticamente il bacio sulla bocca non aveva una connotazione erotica, ma anzi, era un simbolo di comunione fraterna, anche tra persone dello stesso sesso. Un po' come lo è per noi la stretta di mano. E anche in Russia, fino a poco tempo fa, era diffuso il bacio sulle labbra tra uomini. L'usanza più comune in tutta Italia oggi è scambiarsi due baci sulle guance. Questo tipo di saluto è maggiormente usato tra le donne, ma anche gli uomini ne fanno uso. È una forma di saluto comune, ma la stretta di mano è quella che la vince. Esiste una scienza che studia il bacio nei suoi vari aspetti, si chiama filematologia. Secondo questa scienza, il bacio ha delle ricadute positive sulla nostra salute. Ad esempio, la saliva è un ottimo lubrificante per i denti, è utile a rimuovere la placca, lo sapevate? I germi scambiati, invece, aiutano le difese immunitarie, producendo anticorpi. Il livello di ossitocina che cambia nella saliva provoca una diminuzione dello stress, rilascia serotonina e dopamina e ci rende più felici. Non per ultimo, il bacio fa bruciare calorie. Al bacio è stata dedicata una giornata a livello mondiale, World Kiss Day. È nata in Gran Bretagna nel 1990, si è diffusa in tutto il mondo con l'obiettivo di ricordare quanto può essere importante un bacio. Anche nella storia dell'arte, innumerevoli artisti sono stati attratti dall'idea di bacio e hanno voluto raffigurarlo. Parliamo di Klimt, ad esempio, di Picasso, di Magritte. Anche le fotografie ritraggono baci. Una foto poco conosciuta che ritrae un bacio molto bello, è stata scattata in Canada, in occasione dell'Homecoming Kiss. Ritrae due uomini che si baciano, e si tratta del primo bacio gay ufficializzato. Si tratta quindi di un enorme passo avanti verso una società più libera da preconcetti. Ma parlando di passione, non possiamo non citare l'editoriale di Stefania Bergo di qualche tempo fa sul nostro blog. Chi non conosce la canzone Maracaibo? Chi era adolescente a fine anni 80 sicuramente l'ha sentita, l'ha cantata e l'ha ballata. Maracaibo era cantata da Luisa Colombo, Lu Colombo, e è una ballata d'amore dal ritmo ispanico. Parla delle peripezie di una donna, un'amante vera o presunta di Fidel Castro. Parla quindi di Zazà, una ballerina cubana che si esibisce nuda in un locale, il Barracuda. In realtà la danza è solo una copertura per i suoi traffici d'armi con Cuba. Ovviamente il nome di Fidel Castro è diventato Miguel, su pressione dei discografici, ma la canzone si riferisce proprio a lui. E così Zazà, quando fugge per mare, viene colta da una tempesta che fa naufragare la sua nave, spezzandone l'albero. Anche se, secondo alcuni, il mare forse il nome della canzone, è in realtà un non ben identificato nemico che la butta tra i flutti. Come se non bastasse, viene pure morsa da un pesce cane. Lei, testardamente, si aggrappa alla vita e la fa franca. Luisa Colombo era una studentessa di storia dell'arte, impegnata tra uno studio fotografico di Milano e un posto di grafica in un giornale di musica. La sua vena artistica è stata ereditata dalla madre chitarrista. Luisa era un'adolescente degli anni Ottanta che amava Bob Dylan, i Beatles e i Rolling Stones. Le sue canzoni avevano titoli esotici, suggestivi, ricordi di viaggio o di posti che evocavano viaggi da sognare. E Maracaibo, il luogo fisico di cui parla, è un posto pieno di pozzi di petrolio che si trova in Venezuela. La scelta della melodia latina è venuta da sé, per la passione di Lu per le sonorità cubane e per il folklore brasiliano, e per l'intento di rendere la canzone udibile. Ma parliamo di differenze tra uomo e donna. C'è una differenza nel modo in cui l'uomo e la donna pensano, c'è una differenza nel modo in cui percepiscono l'amore, nel modo in cui provano sentimenti, nel modo in cui ragionano. Ritenere che la donna sia più intuitiva dell'uomo, come ci raccontava Ornella Nalon in un suo vecchio editoriale, anche se è una cosa sostenuta da anni, oggi è supportato anche dalla scienza. Infatti sono stati eseguiti degli studi specifici sul cervello degli uomini e delle donne. Il cervello dell'uomo in media è più pesante di quello della donna. Ma non è questo ad incidere sulla differenza di pensiero tra uomo e donna. Infatti la diversa composizione e il diverso funzionamento delle connessioni sono i due veri fattori che incidono sul pensiero. Nell'Università della Pennsylvania sono state sottoposte 949 persone di vario sesso e varia età a una risonanza magnetica che permetteva di conoscere il percorso seguito dagli impulsi elettrici nel cervello. Gli studi hanno dimostrato che nel cervello maschile le connessioni hanno un movimento dall'avanti all'indietro, lungo lo stesso emisfero, mentre nella donna si tratta anche di movimenti trasversali. Detto questo, si può sostenere che nell'uomo, avendo il funzionamento dei circuiti nervosi più limitato, il cervello segue schemi basati prevalentemente sulla razionalità, comportando una loro maggiore predisposizione per le attività motorie, una migliore analisi dello spazio e un più sviluppato senso dell'orientamento. La donna, invece, è maggiormente intuitiva, dimostra maggiore empatia, sensibilità, migliori capacità di analisi e di attenzione. Non per ultimo c'è la spiccata capacità di fare più cose insieme. Per quanto riguarda il numero dei neuroni, invece, i ricercatori della Medical School di Harvard hanno stabilito che sono maggiori nel cervello maschile, ma disposti in maniera diversa in quello della donna. Infatti, l'addensamento è maggiore nel cervello della donna. Le donne quindi hanno maggiore facilità a comunicare verbalmente le emozioni e ad esprimere i sentimenti. Non può mancare in questo breve excursus la motivazione del maggiore impulso sessuale nell'uomo. Questo proviene dall'ipotalamo, che risulta essere ben 2,5 volte più grande di quello di una donna. Per concludere, uomo e donna sono sicuramente diversi, ma l'uno compensa e completa l'altro. Anche oggi vorrei leggervi un estratto di uno dei nostri autori emergenti. Oggi tocca all'estratto di Stefania Bergo e parliamo di tradimenti. Un amore di tanto tempo fa. Il treno filava veloce lungo il litorale. Si poteva godere il mare semplicemente guardando fuori dal finestrino, volgendosi a sinistra. Di tanto in tanto sorrideva, pensando a quello che aveva fatto, e ancor più fantasticando su quello che sarebbe successo di lì a poco. Ho un importante incontro di lavoro, il capo manda me questa volta, si era limitata a dire a sua madre, senza troppi dettagli. Meno male che non poteva vederla. Altrimenti avrebbe sicuramente notato le sue guance avvampare al telefono. In realtà il suo viaggio non aveva niente a che vedere col dovere, anzi, era una vacanza di puro piacere. Simone l'aspettava alla stazione e subito sarebbe iniziata la loro avventura. Una luna di miele furtiva, 2 giorni solo per loro, lontano da tutto, liberi di amarsi senza nascondersi. Anche se la moglie di lui lo attendeva a un centinaio di chilometri, parcheggiata nella casa che avevano affittato. Lei e i due figli, ignari di tutto. Ma come ci sei riuscito? Che le hai detto? Io non capisco, ma sei sicuro che si possa fare? Gli aveva chiesto Gaia, incredula e in imbarazzo. Sta tranquilla, le ho detto che mi prendevo 2 giorni per me, per seguire il vento e per fare un po' di vero surf qui a nord. Simone era un surfista, alto, con le spalle larghe e i capelli scuri. Li portava un po' lunghi sulla fronte, così a volte ribelli, gli adombravano gli occhi. Erano di un nocciolo screziato che al sole brillava come miele. Si erano conosciuti un anno prima, lavorando insieme. Il loro amore era nato in sordina qualche mese dopo. Ma poi era sfuggito di mano. Non era previsto che si innamorassero, o almeno non così. Lui sposato con una sua coetanea frizzante. Non aveva neanche la banale scusante della noia. Lei era ancora nel buio della solitudine, dopo 7 anni regalati a un fidanzato che l'aveva lasciata per un'attrice. L'ultima cosa al mondo che Gaia voleva era un'avventura che potesse lasciarle addosso bruciature dolorose. Eppure non riuscì a arginare il suo cuore quel giorno in ufficio, quando lui le posò le mani sui fianchi per allontanarla dal muro e riuscire così a passare dietro di lei. L'aveva sentito addosso con tutta la passione di un corpo avvolgente, un respiro denso al suo orecchio e pareva quasi un sussurro d'amore, durato minuti. In realtà era stato solo un secondo. Quanto basta per perdersi irrimediabilmente. Lei si voltò a guardarlo, e i suoi occhi verdi increduli, arrendevoli, incrociarono lo sguardo di Simone, sicuro di sé e del suo desiderio. Solo l'arrivo di Claudio, quel giorno, li aveva distolti, altrimenti avrebbero fatto l'amore sulla scrivania. Successe qualche giorno dopo, una sera. Erano usciti a cena insieme con alcuni colleghi, un ristorantino di pesce sul mare e un paio di bottiglie di buon vino bianco. Simone aveva accompagnato a casa prima Silvana e Claudio, poi era tornato vicino alla spiaggia con Gaia. Parcheggiarono e scesero dalla macchina a fare due passi sotto la luna, a piedi scalzi sulla sabbia. Era una tipica serata di fine maggio e l'acqua era fresca, calma. Si avvertiva l'armonia dei flutti nel silenzio. Un ritmo cadenzato perfettamente sovrapponibile ai loro respiri. Si ritrovarono a baciarsi, con l'avidità di chi ha atteso un momento per troppo tempo, consci del fatto che avrebbe potuto non accadere mai più. I fumi dell'alcol, la salsedine dispersa nell'aria, conferirono a quei baci un aroma intenso che districò ogni riserva, ogni possibile freno. Risalirono in macchina, con l'ansia degli adolescenti. Si distesero sui sedili posteriori e si consumarono, fino a quando non resistettero più e il corpo di Simone scivolò dentro di lei. Sapevano che avrebbero oltrepassato il punto del non ritorno, che non sarebbero più stati in grado di liberarsi. Simone trattenne il fiato guardandola, con un'intensità tale da fermare il tempo. Lei sostenne quello sguardo, illuminato da un raggio di luna che filtrava attraverso i vetri appannati, e in quel tempo sospeso si sentì sciogliere completamente, consapevole di essere perduta. Dopo quella prima volta si amarono ancora, furtivamente in ufficio, nelle calde serate estive, quando lui riusciva a ritagliarsi del tempo rubandolo alla sua famiglia, oppure durante le trasferte di lavoro, con la complicità di amici. Quelli erano i momenti più belli del loro amore, uniti anche alla passione per lo sport che invece la moglie non riusciva a comprendere. Lei non lo seguiva mai, non aveva mai espresso il desiderio di imparare a sfidare le onde sul pelo d'acqua. Gaia invece adorava il surf, si sentiva libera e potente, domava il vento, era appesa alla sua vela trasparente con un cerchio dorato come il sole. Insieme a Luca e Andrea partivano all'alba, con il loro furgoncino della Volkswagen verde smeraldo. Si drogavano di rock a tutto volume e arrivavano carichi in spiaggia. Stavano in mare tutto il giorno e finivano con una pizza al locale di Marisa, anche lei complice. Condividevano i segreti e i sogni delle loro vite. Erano amici inseparabili, amanti indivisibili. Indivisibili. Fino a quando si resero conto che non potevano andare oltre. Il loro amore era così travolgente che non poteva più restare nell'ombra. Non poteva più accontentarsi dei ritagli. In loro era cresciuta la consapevolezza che non si trattava più di una passione, di un desiderio di trasgressione, di qualcosa di leggero. Simone era il vero amore di Gaia, e forse lei era la sua metà, la donna che aveva sempre sognato di avere al suo fianco, ancora prima di conoscerla. Tutto di lei era perfetto, combaciava col suo disegno. I capelli scuri, gli occhi verdi e luminosi, il corpo atletico e asciutto, sempre scattante, plastico. Un'indole disinibita e senza freni. Una passione per il surf, la danza e la natura. Una mente vivace, intuitiva, una dolcezza sensibile, una femminilità disarmante e una passione totalizzante. Entrambi sapevano che Simone avrebbe onorato il suo impegno ad ogni costo, mai avrebbe lasciato i suoi figli, né avrebbe fatto loro del male. In tutto questo la moglie non c'entrava, non era sangue del suo sangue. Posso tradire Anna, ma non i miei figli. E l'amore allora? Ma quella domanda restava sempre senza risposta, seguita da una devastante sensazione di impotenza, come quando si sgretola la propria vita tra le mani. Quella sarebbe dovuta essere la loro vacanza d'addio, una luna di miele, che invece di iniziare una vita insieme, ne avrebbe suggellato la fine. Ma si erano ripromessi di viverla come se il domani non esistesse, come se il tempo avesse potuto fermarsi per sempre nella notte e quei due giorni si fossero trasformati in infinito. Il treno entrò nella stazione e mentre rallentava, Gaia sbirciò sul marciapiede in cerca di Simone. Lui la attendeva puntuale, con il suo sorriso più bello. Nessun mazzo di fiori, solo un sacchettino di mandorle e un papavero rosso infilato nel taschino. Lei indossava un vestitino bianco di cotone e profumava come una magnolia a maggio. Era radiosa come una sposa, con un peso plumbeo sul cuore che si sforzava di ignorare. Era il loro giuramento, esistevano solo due e un presente da vivere. Scesero dal treno e gli saltò letteralmente in braccio, lasciando cadere lo zaino a terra, baciandolo come in un film, mentre lui le infilava le mani sotto la gonna, incurante del resto del mondo. «Quanto sei bella», le disse, come se ne fosse rimasto folgorato solo in quel momento. «Ciao, amore mio!» Salirono in auto e si diressero verso la città attraversando vaste terre di ulivi e mandorli. Lui le accarezzava le cosce abbronzate mentre lei guardava dal finestrino aperto, riempendosi gli occhi di natura. Il loro desiderio in quel momento era talmente grande da non poter essere domato. Si fermarono lungo la via, infilandosi in una stradina di campagna che tagliava un uliveto, e lì, all'ombra di un muretto di pietre chiare, fecero l'amore mentre tutto intorno le cicale impazzavano e mescolavano la loro armonia con le note di Norah Jones. Gaia avrebbe associato per sempre quella vacanza al frignire isterico delle cicale. Appena prima di venire sorpresi dal proprietario delle terre, che si avvicinava a piedi da lontano, risalirono in macchina, sotto il sole che stava salendo fiero nel cielo terso. Trovarono un posticino appartato, tranquillo, tra gli scogli di un'insenatura, su un mare placido come olio e caldo come liquido amniotico. Trascorsero tutta la mattina nudi nell'acqua, a nuotare e amarsi, incuranti del resto del mondo. Salirono in strada e cercarono un posto per pranzare. Gaia aveva raccolto i capelli bagnati in uno chignon, decorandoli con un fiore viola di bougainville. Aveva indossato il vestito sulla pelle umida, e la conseguente trasparenza lasciava intuire che sotto non avesse altro, se non la sua passione indomata. Da fuori potevano sembrare una coppia. Nessuno avrebbe mai immaginato che si trattasse del canto del cigno del loro amore. Pranzarono sul mare, pesce fresco e buon vino, come la loro prima cena. Ma questa volta erano soli, immersi uno nell'altra. Non fisicamente, come poco prima, ma altrettanto intensamente. Di tanto in tanto gli occhi di Simone diventavano traslucidi. Le sue mani si serravano attorno a quelle di Gaia, come se stesse scivolando lontano e lui volesse trattenerla. Lei gli sorrideva, malgrado il cuore grave, e fugava ogni ombra, giocando col suo desiderio per confondere il cuore e distoglierlo dal dolore. Poco prima del dolce, gli scese una lacrima beffarda, sfuggita al controllo. Lei posò il bicchiere sulla tovaglia bianca, e gli si sedette in braccio, alzando appena il vestito per ricordargli che non indossava altro. Il cameriere attese qualche minuto prima di arrivare al tavolo, forse per rispetto di quel momento, forse per imbarazzo, forse perché si aspettava di vederli andare oltre, proprio lì in quel momento. Invece Simone la abbracciò, affondò per un istante il viso tra i suoi seni e respirò. Trascorsero il pomeriggio ancora al mare, questa volta su una spiaggia, impanandosi sulla sabbia. Non abbastanza appartati per fare l'amore, ma sufficientemente in disparte per assaggiarsi la pelle salata e giocare con le mani, come adolescenti. Ma dove andiamo a dormire? Chiese Gaia, realizzando solo verso sera che avrebbero dovuto trovare un posto per la notte. Non ti preoccupare, io la trovo sempre una casa dove dormire. Siamo andati spesso in vacanza senza prenotare prima, disse Simone senza pesare le parole. Quell'allusione a una vita che non le apparteneva, a una routine che lei non avrebbe mai vissuto. Gli tolse per un istante il respiro, come se avesse ricevuto un pugno. I suoi occhi verdi si spensero impercettibilmente, e lui se ne accorse. La tirò a sé abbracciandola, senza dire nulla. Cos'altro c'era da aggiungere? Casualmente, come previsto, mentre acquistavano arance e mandorle, Simone sentì parlare una signora di una casa da affittare, anche solo per una notte. E sempre casualmente, la casa era libera, proprio quell'unica notte. La dimora era incantevole, di pietra chiara, fresca. Profumava di fiori di campo. Alle finestre aveva tende bianche di cotone, ondeggianti all'aria tiepida dell'imbrunire. Non c'erano porte, eccetto quella d'ingresso. Il bagno era celato da un telo di juta e la doccia era racchiusa da rocce naturali levigate. Fecero l'amore anche sotto l'acqua. Le braccia di lui la sostenevano e lei gli si aggrappò, stringendosi al collo. Simone si fermò fissandola negli occhi, talmente a fondo da farla sentire nuda. Trattennero il respiro. Se non fosse stato per l'acqua che continuava a scorrere, si sarebbe potuto pensare che il tempo si fosse fermato. Ho fame, usciamo? Disse Gaia in un sussurro. Il sesso non era più importante. Stavano per vivere la loro ultima notte. Che differenza poteva fare? Lasciarono tutto in sospeso. Si asciugarono e si vestirono. Erano già le 10, ma in quella città di mare i locali erano sempre affollati. Trovarono un posticino carino, in un vicolo medievale. Un tavolino improvvisato sul marciapiede. Ordinarono solo qualche stuzzichino e un paio di bicchieri di vino a testa e parlarono, parlarono, parlarono del loro amore, della vita che avrebbero voluto vivere. Ma non con disperazione. Risero, immaginando situazioni usuali di vita adorabilmente banale, momenti imbarazzanti che spesso accadono nella routine domestica. Fantasticarono su come sarebbero stati i loro figli, su come avrebbero trascorso la vecchiaia. Poi passeggiarono per il centro. Era notte fonda e tutte le luci erano spente. Tornarono a casa, travolti non solo dal desiderio che era rimasto in attesa, ma anche dalle risate. Erano le 5 quando si addormentarono. Dopo un paio d'ore Simone si svegliò. Il sole fendeva il pavimento della camera in un punto poco lontano dal letto. La stanza era già luminosa. Gaia dormiva ancora. Lui la ammirava, innamorato, completamente inerme, sconfitto da una vita che non gli dava scelta. Pianse in silenzio mentre lei si svegliava. Non c'era più tempo, almeno per loro. Lui doveva rientrare da sua moglie e lei aveva il treno verso le 11. Erano le ultime ore della loro luna di miele. Gaia si ridestò con l'aroma del caffè nelle narici. Bastò uno sguardo, non servivano parole. Non parlarono. Lasciarono quella casa in silenzio, l'unica in cui avessero mai abitato. Non parlarono neppure salendo in macchina. Non parlarono neppure quando arrivarono in stazione. Il campo di papaveri era sempre lì, disteso sotto il sole. Le cicale frinivano, ma sembravano trascorsi secoli. Questo non cambia nulla tra noi, non ti amerò di meno, disse Simone con la voce rotta dall'emozione. E così sarebbe stato davvero, per gli anni a venire. Cambiamo solo abitudini, ma tu resterai per sempre qui, fece eco lei, prendendogli la mano. Gaia salì sul treno senza voltarsi, si sedette senza cercarlo. Sapeva che forse lui era lì a guardarla. Non l'avrebbe rivisto più, perché quello era il giuramento. Lei si era licenziata e doveva trasferirsi in un'altra città. Doveva preservare la famiglia di Simone, ma chi avrebbe protetto lei dalla disperazione? Il treno partì e strappò quell'amore, ma solo in superficie, perché nel profondo rimase intatto, quel giorno e i giorni a venire, come quando si raccolgono gli steli della lavanda e si mettono a essiccare, il loro profumo perdura, anche se la pianta non ha più radici nella terra, e anche se non raccoglie linfa vitale. Conserva così il colore, non sbiadisce mai. Viola, come un fiore di bougainville tra i capelli, in una fotografia di tanto tempo fa.